Alessandro Milan! Ma che cazzo è Alessandro Milan? Boh. Uno, uno. Uno, nessuno. Uno, nessuno. Nessuno, 100.000. Uno, nessuno. 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Le scarpe mi stanno strette. È spuntato il sole. Il pappagallo è rosso. Manera è più sereno. L'aquila vola. È tornato Albertone. La mucca non dà latte. Siamo qui dalla ridotta di Viale Monza, signori, per una nuova puntata in diretta fino alle 10.30 con voi di Uno Nessuno 100 Milan. È spuntato il sole, bene sì, Leonardo si è tranquillizzato e torna con noi tra pochi minuti Alberto Forchielli. E ci siamo a raccontare insieme a voi, che ci chiamerete all'800 24 00 24, questa nuova giornata, i vostri spostamenti, se li dovete fare, se lavorate, se siete obbligati, i vostri spostamenti tra il corridoio e la cucina, se siete invece reclusi in casa. Mandateci anche i WhatsApp al 349-238-6666 con la nostra redazione, l'Alpino in regia. La donata degli Alpini è stata spostata, alla fine Alpino porta la penna nera e il cappello in studio, che almeno celebreremo così, e poi chi vivrà vedrà. Insieme a te c'è Claudia Schiattone, che saluto, grande tifosa rossonera, grande tifosa del Milan, come tutti i milanisti che poi... Ah no? Mi dicono dalla regia di no. Vabbè, insomma, la facciamo entrare lo stesso nella redazione di Uno Nessuno 100 Milan con Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Vestagliona Manera a casa, come me d'altronde, ma in un'altra casa, e il nostro Raffaele Kohler, che torna con noi e che saluto. Raffaele, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti. Dalla tua parte di Milano, dal tuo balcone, hai visto che è spuntato il sole, è tornato l'inverno. Veramente, ma è spuntato il sole. Fa freddissimo, ma con un bel sole, insomma. Ecco. È un bel sole di speranza, è un bel sole di speranza. Allora, ieri abbiamo iniziato la settimana giustamente onorando un po' tutti coloro che sono caduti, e purtroppo ce ne saranno ancora, no? Di persone che ci lasceremo alle spalle con questo coronavirus. Però oggi la tua tromba so che vuole raccontarci qualcosa di diverso. Allora, io immagino in questi momenti qui che stiamo vivendo veramente particolari, immagino quello che potrebbe raccontare con un film Federico Fellini, magari se poteva vivere anche lui questi momenti insieme a noi, magari li avrebbe raccontati in un film incredibile, magari con la sua tragicità, ma anche con la sua poeticità e la sua ironia, anche magari potrebbe raccontare questi momenti magari con... Allora mi è venuto in mente quel film Amarcord, dove appunto racconta appunto di questi ricordi di giovinezza così, e vorrei appunto dedicare a tutti gli ascoltatori questa Amarcord scritta da Nino Rota. Vai, Raffaele. Bellissimo, che brividi, devo dire, che brividi. Io, come dire, Raffaele, ringrazio Raffaele Kohler, o dovrei dire il dottor Jennifer? Ah, quello... Chi lo sa? Noi abbiamo degli informatori, tu non credi, ma noi abbiamo degli informatori sottobanco che ci passano delle veline e ci spiegalo tu, dai, perché dottor Geli. Quello è un mio alter ego che abbiamo, è una piccola rubrichetta, perché noi adesso è ferma, è una trasmissione radiofonica musicale che facciamo, che si chiama Notte Vulnerabile. E sì. Su Radio Popolare, ma sì, su Radio certo. Popolare facciamo questa trasmissione tutti i martedì sera dalle 23 a mezzanotte e invitiamo sempre dei gruppi differenti ad esibirsi dal vivo insieme al mio amico Luciano Macchi, Alessandro Sicardi, Domenico Mamore e suoniamo con loro, facciamo un po' di show casinista, ecco, diciamo, e alla fine compare questo dottor Jennifer, che è un dottor americano farlocco che si occupa di problemi cardiosentimentali, ecco. Cardiosentimentali, diciamo così, vabbè, ma magari ci darà un consiglio nei prossimi giorni. Esatto, dai Raffaele, io ti ringrazio tantissimo, in attesa di incontrarci quando tutto questo sarà finito. C'è già un invito per te quando sarà finito, in diretta Radio 24, se vorrai venire con la tua tromba, stai lì, ci tieni compagnia, se ti fa piacere. Tanto grazie. Sì, comunque, vero piacere e poi nel frattempo sono qui a casa pronto con la tromba, certo. Un vero piacere. Grazie Raffaele, un grande abbraccio, ci piace iniziare così in questi giorni, uno nessuno 100 Milan, adesso Alpino però vai. Enthusiasm about the future. Allora, cari ascoltatori, il numero l'ho detto, 800 24 00 24, chiamateci per raccontare le vostre giornate, vi dovete muovere. Oggi per esempio avremo ospite un lavoratore che fa un lavoro molto molto particolare, molto impegnativo in questi giorni, porta a casa delle persone le bombole di ossigeno, è un lavoro che fa abitualmente ma che in questo periodo è un lavoro che comporta diverse ore sulla strada tutti i giorni, perché le richieste di ossigeno a casa sono nettamente aumentate. A proposito di cure, ma io non ho capito questa cosa, non sono un farmacologo, per carità, non sono uno scienziato, non sono un medico, leggo e riporto quindi le perplessità di vari medici, ma questa storia dell'Avigan, ma non lo so, sperimentiamo un farmaco che non ha alcuna validità e validazione scientifica e che ha perplessità anche dalla stessa casa produttrice. Lo prendiamo dal Giappone, lo sperimentiamo. Per carità, io lo so che è nella natura umana cercare sempre di guarire, di star meglio, ed è un bene, e volere sempre la cura miracolosa per risolvere un problema. Va bene, sperimentiamo un farmaco che non ha alcuna base scientifica di veridicità fino a questo momento. Questo è, e mi ha molto colpito. Dopodiché, signori, allora la finita di spostarvi, anche se il Viminale, abbiamo sentito durante la mattinata, ha detto che tutti quelli che si spostavano per lo stretto di Messina erano regolari, avevano diritto a spostarsi, però la finita di spostarvi, che adesso arrivano coi droni a controllarvi, arrivano a vedere coi posti di blocco, se non ce la fanno ci pensa lui, Cateno De Luca, rischia di diventare il nuovo De Luca, nel senso di De Luca, il presidente della Regione Campania. Cateno De Luca, sindaco di Messina, ha un po' sbroccato, vai Alpino. Perché non ci possiamo continuare a fare pisciare addosso da chi da Roma fa provvedimenti senza prima definire l'organizzazione per farli attuare. Mi sono rotto le palle di questi politici che fanno solo annunci. Prima si prepara la macchina, poi si annuncia il provvedimento e si pubblica. Insomma, sta di fatto che il Viminale ha detto: caro sindaco, quelli che si spostavano per lo stretto di Messina erano regolari. Ma adesso io voglio dare il buongiorno, attenzione, facciamo una sperimentazione, è una sperimentazione tutta fatta e finita. Albertone, mi senti? Alberto Forchielli. Beh, allora metti le tue Cosa c'è, Alberto? Inseriscile, si danno in automatico, altrimenti non riesce a mettere le cuffie. Sentilo qua la sperimentazione. Mi senti? Guarda, tira giù il canale, Alpino, perché Alberto è capace di dire di tutto in diretta. Ma com'è possibile? Allora, abbiamo fornito ad Alberto Forchielli la app per collegarsi con un audio buono, un audio positivo con noi. Allora, adesso credo che lo stiano assistendo. Devi inserire le cuffie, devi mettere il jack, non ci si sente, forse ci sentiamo, non lo so, io ho bisogno di alcuni cenni per capire che cosa stia succedendo dall'altra parte del telefono. Alberto Forchielli c'è, Alberto Forchielli non c'è, Alberto Forchielli ci sente, Alberto Forchielli non ci sente. Credo che l'esperimento sia naufragato nel disastro. Albertone Forchielli che vive in Thailandia, si sposta in Cina, vive a Francoforte, vive a Boston, vive nel mondo, vive a Singapore, ha la casa a Hong Kong, ha due case in Thailandia, ha le cuffie che non gli funzionano, e quindi avendo le cuffie che non gli funzionano dovremo ricorrere ai vecchi sistemi del telefono. Vabbè, insomma, quanto ci mettiamo a chiamarlo al telefono? C'è Albertone Forchielli? Non si sa. Niente, non risponde. Allora io voglio dire 800 24 00 24, questo, come si suol dire, è il bello della diretta. Se volete invece mandarci i messaggi WhatsApp 349 238 6666, questo per i vostri messaggi. Devo dire che ne arrivano già molti, c'è chi mi dice su Avigan la penso come te, altri invece criticano, e d'altronde, ripeto, è nella natura umana quella di cercare di ottenere delle cure, quella di cercare di guarire, di trovare una soluzione per stare meglio. Però io di fatto sto dicendo che le cure scientifiche vanno utilizzate solamente quando ci sono le validazioni scientifiche. Abbiamo Albertone Forchielli? Non ho segni dalla regia. Albertone, ma perché non risponde neanche al telefono? Questa è una roba incredibile. Guarda, mando il messaggio WhatsApp. Ti stiamo chiamando al telefono, rispondi. Oh, questo, chissà se magari con questo messaggio, con piccioni viaggiatori, con vecchi SMS, il buon Albertone Forchielli capirà che deve rispondere al telefono. Ha visto la chiamata, ha visto il messaggio, ti stiamo chiamando al telefono. Però mi dicono che avete il telefono sbagliato. Ragazzi, oggi la redazione, non lo so, siamo tutti nel pallone. E quindi non lo so, cosa ti devo dire, Alpino? Mandiamo il traffico, mandiamo la pubblicità, mandiamo qualche ascoltatore, mandiamo del varietà, mandiamo un balletto, mandiamo un po' della tromba di Kohler ancora, non lo so, qualcosa che mandiamo. Va bene, dai, manda la pubblicità, dai, facciamo questa cosa, mandiamo la pubblicità alle 9 e 21 minuti, vai! State ascoltando un programma offerto da... Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Don't you tell me that it wasn't meant to be. Call it quits, call it destiny. Allora, siamo qui, cari ascoltatori, con... alle 9:23 minuti, dicevamo, in attesa di collegarci con il buon Albertone Forchielli, dicevo che ci sono dei lavoratori che in questo momento sono molto molto stressati. Io voglio salutare Victor Comanescu, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno anche a voi. Allora, Victor Comanescu, che è romeno di origine, da tanti anni qui in Italia, giusto? Sì, dal 2007. Dal 2007. Passa praticamente la giornata a portare in tutti i presidi ospedalieri del Bresciano l'ossigeno, che è un lavoro che noi conoscevamo forse poco fino a poco tempo fa, no Victor? Sono pochi che non conoscono questo lavoro e purtroppo in questo periodo lavoriamo molto di più, vista la pandemia di Covid-19, proviamo a starci dietro alle consegne provviste anche della farmacia che non riescono più a gestire la cosa. Cosa vuol dire non riusciamo a star dietro alla situazione? Perché normalmente le farmacie sono provviste di 3-4 bombole di bombole di gasosio che vengono richieste ogni tanto tramite il dottore di famiglia e la ricetta. Invece adesso dobbiamo attivare molto più pazienti che tornano a casa dagli ospedali con questa patologia e li attiviamo noi con le bombole di liquido. Quante ore lavora lei, Victor, in questi giorni? Partiamo dalle 6 di mattina e si torna quando si torna. Si può tornare alle 5, alle 6 di sera, si può tornare anche alle 10, alle 11. In questo periodo i colleghi stanno facendo un sacco di attivazioni nuove anche sul Bergamasco, che ci sono concentrati di più sulla zona di Bergamo. Beh sì, Stiamo cominciando anche su Bresciano con le stesse problematiche. È abbastanza incredibile. Percentualmente le persone che incontra adesso sono persone legate soprattutto a questa nuova patologia, a questo nuovo virus, la maggior parte, oppure ci sono i soliti? Sono i soliti più un 3-4 attivazioni al giorno di coronavirus. Ma normalmente ne facciamo intorno ai 20-30 persone al giorno che hanno le patologie diverse e che hanno bisogno di ossigenoterapia a domicilio. Sì. Insomma, direi che è abbastanza incredibile. Io ho letto con qualche sua dichiarazione dicendo che qualcuno magari quando la incrocia stortava anche il naso per il fatto di essere straniero di origine. Spero che almeno questo, in una situazione in cui fa un lavoro fondamentale, sia un po' passata. È passata, è importante ricevere quello che hanno bisogno, perché sono un po' disperati anche loro. Sì, devo dire che ieri ci ha anche chiamato un ascoltatore che fa questo lavoro, che porta ossigeno in tutti, anche nelle case. E, non lo so, Victor, le mandiamo un abbraccio, perché in questo momento sono molte le persone che lavorano. Spesso si guarda giustamente i medici, gli infermieri, i farmacisti, tutto il personale ospedaliero, però è tutta una filiera, no? Ci siete anche voi. Come è inquadrato lei come contratto? Cioè che lavoro è il suo dal punto di vista contrattuale? No, siamo operai, no? Sotto operai. Un padroncino che ha questo, in questo periodo è affiancato tutto 100% a noi e sta facendo lo stesso lavoro che lo facciamo anche a noi su Bergamasco. È certo, perché c'è bisogno. E per fortuna ci sono unite un po' più aziende, andiamo avanti con le attivazioni tutti insieme. Adesso non si tratta più di concorrenza, di zona, di importante di gestire la cosa. Certo. Victor Comănescu, grazie davvero, un grande abbraccio, perché fate in questo momento più che mai fate un lavoro fondamentale. Allora, sono le 9:28 minuti. Albertone Forchielli, ma che cavolo è successo? Albertone, pronto? Le tue app non funzionano. Ma non è vero, guarda, ti faccio sentire adesso Leonardo Manera, che è collegato con l'app. Leonardo, buongiorno. Niente, anche Leonardo Valera non c'è. No, hai ragione, ok, che cavolo ti devo dire? Ci sono. Non avevo ancora schiacciato il bottoncino rosso. È caduto Forchielli, mi sembra. È caduto Forchielli, direi che oggi. Era un altro. Oggi è tutto fantastico, è tutto una meraviglia. Albertone Forchielli, allora, io t'ho chiamato perché vorrei capire che cosa succede nell'economia mondiale. Tu qualche giorno fa hai scritto un articolo sul Sole 24 Ore, hai detto: guardate che in Germania ha messo 550 miliardi a disposizione per la ripresa. Dall'altra parte leggo, ho sentito anche oggi il nostro direttore, in Germania c'è il rischio del crollo del 20% del PIL con 700 miliardi di euro di costo. Allora, ma quando finirà tutto? Che cocci raccoglieremo? Dipende. Nei paesi forti, tipo la Germania, tipo la Cina, che hanno messo in atto politiche forti di contenimento, di sostegno alle imprese, probabilmente emergeranno più forti degli altri. Nei paesi marginali come i nostri, che non hanno gli occhi per piangere, usciremo devastati. Potrebbe essere che il 40% delle imprese chiuse. Quindi c'è una divaricazione. I sistemi forti, che sono in grado di mettere reti molto forti di sostegno perché possono spendere, usciranno ancora più forti. Invece i paesi deboli che non hanno questa forza usciranno devastati, questo è l'Italia, temo. Insomma, è un po' darwiniana come cosa, vai Leon. Se questa cosa succederà anche per le persone, nel senso che le persone che già prima erano economicamente forti ne usciranno senza grandi problemi, invece chi aveva già problemi farà ancora più fatica. Hai. Alberto? Perché no? No, ci sta purtroppo. È una selezione darwiniana. È una selezione darwiniana, vale anche per le persone. Per questo io sono così contrario alla chiusura delle attività produttive, capito? Critico questi scioperi che vogliono chiudere le aziende, perché ragazzi, qui si chiude le aziende e si peggiora la situazione delle aziende. Ci sono delle aziende che possono rimanere aperte anche col 50% di fatturato, ma fatele respirare. Questo è quello che vuol dire chiudere un'azienda. Vuol dire che perde il fatturato e tiene tutti i costi sul gruppone. Ragazzi, senza fatturato, dopo 6 mesi fallisce anche la Apple, intendiamoci. Mica bisogna essere... Capito? Cioè, sì, figurarsi, come dire, le imprese italiane. Tu però hai fatto anche quest'altra proposta concreta. Quantomeno, visto che ne abbiamo parlato tante volte, quanti debiti lo Stato ha nei confronti delle imprese? Cioè la pubblica amministrazione deve pagare degli arretrati, che voglio dire, no? Almeno paghino questi, no? Paghino subito. Ma certo, fanno finta di fare grandi cose con questi decreti Cura Italia, che poi è Placebo Italia, non è Cura Italia. Poi dopo nascondono la testa nella sabbia. Sono crediti non pagati a 500 giorni, capito? Situazioni di questo genere, hanno posticipato il pagamento delle imposte di 4 giorni. Sono pazzi, capito? Cioè non voglio vedere la realtà. Ma non voglio vedere in quattro giorni cosa vuoi che cambi? Nel governo, nei sindacati, purtroppo le imprese non hanno voce. Beh, non hanno voce, in realtà insomma ne hanno, ma tu dici non bisognerebbe chiuderle. Io vorrei capire invece se tu hai sentito la voce dell'Europa, o tu sei un europeista, nel senso che tu sei cresciuto, hai costruito una parte dell'Europa a fianco a Romano Prodi, l'abbiamo raccontato tante volte. Adesso l'Europa la Merkel e la Germania ci hanno preso sei malati, questo è, però per il resto l'Europa. Dipende da come la si guarda, capito? È un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Io ho pochissime aspettative di solidarietà europea, per cui quello che succede, tutto sommato, non mi dispiace. C'è chi invece ha grandi aspettative e rimane deluso. Cioè, il progetto europeo è un progetto che prenderà qualche secolo per unificare, capito? Abbiamo fatto dei passi importanti. Pensare che ci sia un'Europa solidale e compatta è una fantasia, non c'è mai stato. Capito? Le nostre regioni litigano tra di loro, capito? E gli stati europei litigano tra di loro, anche le regioni in Italia cercano di accaparrarsi più risorse che possono. In tutto questo noi ovviamente viviamo il nostro dramma italiano, ma ti vorrei sottoporre due realtà. Gli Stati Uniti, che tu conosci, spesso vivi a Boston e tra poco ci sono le elezioni quest'anno, e soprattutto l'India, altro paese dove hai lavorato. Ragazzi, in India c'è 1 miliardo di persone che sono così isolate, che non si capisce come... E l'India è un'economia, come dire... Su cui bisogna fare molta attenzione. Allora, l'India e l'America, chi sta messo peggio? In teoria l'India, perché l'India non dovrebbe essere in grado di far fronte a questa epidemia. Infatti nessuno sa veramente come sta andando il coronavirus in India, non se ne parla, ma dovrebbe essere un disastro perché non hanno le strutture sanitarie per poter affrontare. L'America, tieni presente che l'America però le previsioni sono agghiaccianti, si parla di una disoccupazione al 30%. Cioè lì dove c'era piena occupazione la gente faceva due lavori tranquillamente, adesso disoccupazione al 30%. 30%, sì. Sì, perché tutto il settore dell'hospitality, dagli alberghi, il Marriott ha un 10% di occupancy rate. I Burger King, McDonald's chiusi, tutte le catene e le distribuzioni chiuse, quelli sono, non so, solo quelli sono 13 milioni di lavoratori a casa, più tutti gli altri. Quindi le previsioni sull'America sono apocalittiche e non c'è da sorprendersi che la gente faccia la fila per comprare le armi. Perché vedi, quello che l'esperienza cinese sta insegnando, siccome sono un mese o due avanti a noi, è che una volta finito il contagio, col cazzo che riparte. Non riparte un cazzo. Perché lentamente si spera. No, Alino, per due ragioni. Prima c'è il terrore del contagio di ritorno, per cui non è che aprono. Perché anche se finisce il contagio potrebbe ripartire. Per cui non è che possono smantellare tutti i provvedimenti, diciamo, contro la socializzazione delle persone. Rimangono le quarantene, rimane il non viaggiare, e sono cose, e non è che la gente esce fortemente traumatizzata da questo, non è che si riprendono dal cinema, riprendono dal ristorante, riprende a comprare. Sì, c'è una botta di ritorno. Insomma, qui abbiamo Leonardo Manera, che è un amareggiato, già sempre abbattuto, pessimista. Albertone Forchielli ti sta distruggendo, Leonardo. Sì, c'è la speranza che si possa trovare un farmaco che almeno attenui gli effetti, insomma. Bravo, Leonardo, è così. Cioè, io, se volete una nota d'ottimismo, siccome io credo nella scienza, io credo che sia una terapia che un vaccino verranno fuori molto prima di quanto tutti dicano. Prima di un anno, insomma, quando si dovrebbe pensare. Irrazionalmente, nonostante tutti dicono ci vuole, irrazionalmente io credo che verranno fuori prima. Questa è la salvezza, altrimenti tutto il 2020 e gran parte del 2021 saranno presi. Se non arriva un vaccino, una terapia, la gente non ritorna come prima. Sì, c'è anche l'effetto psicologico, ci dice Alberto, giustamente. Se non è che è finito tutto, la gente torna normalmente a vivere. No, uno prima non si fida, poi deve recuperare la fiducia, poi un po' di ottimismo. Poi dopo pizzica la crisi economica, per cui c'ha meno soldi, preoccupato del futuro, l'azienda non riprende, il lavoro non riprende, capito? Perché uno esce dall'epidemia ma si ritrova in piena crisi economica. Senti un po', tu che ami tanto i cinesi, si parla sempre dei cinesi, hanno nascosto, partiti in ritardo, quindi hanno permesso che centinaia di milioni di persone viaggiassero, quindi si hanno spalmato con questo virus. È la terza volta, le prime due volte c'è andata bene, 99 l'aviaria, 2003 la SARS, e questa volta... E siamo riusciti a contenerle, questa volta l'abbiamo preso il culo. Quella famosa storia degli animali esotici che mangiano i pipistrelli, tutte queste robe qui, che finita alla fine. Adesso veramente non so se mangiano anche i pipistrelli, comunque queste robe qui che passano dai pipistrelli, degli zibetti e compagnia, alla fine sì. È vera, cioè nel senso la zoonosi, come si chiama, io sto leggendo il libro di David Quammen, è straordinario, racconta spillover, racconta proprio i salti di specie, pare che sia partito dal mercato degli animali esotici di Wuhan, però c'è anche da dire, Alberto, che lo stesso David Quammen, molto esperto, parla anche delle deforestazioni, per esempio l'Ebola è nato dai gorilla del Congo perché andiamo a deforestare e quindi entriamo in contatto con questi animali, magari in un villaggio sperduto, e poi la globalizzazione fa il resto. L'Ebola l'abbiamo contenuto perché era quella gente che lo pigliava, fortunatamente, mi dispiace per loro, non viaggiava. L'aviaria, la SARS sono nati in periodi in cui la Cina era ancora abbastanza chiusa, ma adesso la Cina è straaperta, ci sono 160 milioni di cinesi con passaporto che viaggiano, per cui non è possibile che una malattia che sorge all'interno della Cina non venga propagata al resto del mondo. Ho capito, hai voluto la globalizzazione, e giustamente tu sei uno di quelli che, e quindi adesso questi sono anche gli aspetti negativi. Mi becchi i colpi di coda, dici tu. Ma secondo te, Alberto, le faranno le elezioni americane? Cioè, voglio dire, rinviano tutto, le Olimpiadi, eccetera. Elezioni americane a novembre. C'è chi dice che Trump cerchi di sospenderle, effettivamente. E che vuol dire sospenderle e? Comunque entriamo in un regime di dittatura militare. Io non so realmente come potrebbe farlo. Però c'è effettivamente qualche preoccupazione in tal senso. Perché Trump andava sicuro per la rielezione. Adesso se si presenta con 30% di disoccupazione, con mercato più basso di quando lui era partito, hai voglia di convincere che la colpa è il coronavirus, però la gente è incazzata. È incazzata, ma in questo momento chi è che si può imporre come il leader che dice io il coronavirus lo sconfiggo, cioè nessuno è colpevole del coronavirus? Nessuno, però la gente non è felice e quindi cerca il cambio, cosa che non era ipotizzabile prima. Quindi adesso le possibilità di vincere per Trump si stanno assottigliando. Sì. Eppure in Italia invece pare che Conte stia aumentando i consensi nonostante il coronavirus. Ti piace Conte? Conte? Ma non lo so, ogni giorno, capito? È sempre lì che gioca ruba mazza con le regioni, capito? Le regioni dicono una roba, poi lui cerca di fare qualcosina di più. Fanno un provvedimento il lunedì, poi dopo fanno un altro il mercoledì, non è spostato neanche a vedere se quello del lunedì ha funzionato. A me sembra un gestire la crisi così a singhiozzo. E poi intendiamoci, questa esplosione di casi che ci sono in Italia non può essere solo spinta, però un po' di imperizia a Roma, nelle regioni, negli ospedali ci deve essere stato, dai, andiamo. Non può esserci tutta questa percentuale così di diffusione. Siamo stati spiegati. No, siamo anche stati pirla. Probabilmente siamo stati spiegati la nostra pirlaggine, però un po' pirla siamo stati. Nelle regioni, e voi, a questi decreti che sono usciti prima, poi dopo la gente pigliava il treno, andava al sud, l'ospedale di Codogno. Poi le manovre restrittive, poi dopo sì, poi dopo no. Insomma, io tutto questo, questa ammirazione per Conte non ce l'ho. Credo che sia un bravo Cristo, capito? Però vabbè. Più in là non ti spinge. Albertone, adesso, noi ti aspettiamo la prossima volta. Adesso sarebbe il momento di Draghi, capito? Qui bisogna fare una rete per l'impresa a 250 miliardi. Anche tu sei di quelli che approfittando, diciamo così, della situazione coronavirus, dice è il momento del cambio di governo, è il momento. Bisogna spendere una rete di protezione per le imprese italiane e dargli 150-300 miliardi, capito? Una roba del genere potrebbe implicare gli eurobond. Se sono una persona in Italia che io conosca che può avere la credibilità di portare avanti un discorso di questo genere, che si chiama Mario Draghi, punto, basta. E qui corriamo il rischio che alla fine di questa vicenda il 50% delle imprese italiane se va bene e tutto. E qui adesso invece una previsione per chiudere le aziende, tra 6 mesi la gente sciopererà perché le aziende sono chiuse davvero e non riaprono. Certo. E invece una previsione sulle borse? Le borse continueranno a calare o troveranno un loro equilibrio? Che ha investito Leonardo, esatto. Ha investito, quindi Albertone, ha investito in robe che tu quando vendi da 10 chilometri dici ma, e invece Leonardo ha investito. No, io l'incapettato l'ho preso sui bond, ok? Già mi basta e mi avanza. Sono qui che guarda le borse in attesa di comprare, però secondo me l'incertezza permane per qualche altro mese, per cui dovrebbero scendere ancora. Dovrebbero scendere. Bene. Va bene, sei contento, Leonardo? Va bene. Albertone, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ti aspettiamo con l'app la prossima volta. Senti come si sente bene, Leonardo. Cosa è successo? Ma perché ci vuole la cuffia? Non mai detto che ci voleva la cuffia. Ma certo, ma anche degli auricolari. Anche degli auricolari banali. Ma nulla è banale per me quando si parla di tecnologia, capito? Ma non è vero. Ma sei un ipertecnologico. Ma me lo devi dire, io incomincio alle 6 di mattina a provare gli auricolari, non me lo puoi dire 2 minuti prima che l'app prevede gli auricolari, capito? Mentre gli auricolari per me, capito, è come fare la Liegi Bartoliesi, Vabbè. Alberto, ti aspettiamo la prossima volta allora come vuoi, intanto un grande abbraccio, allora ti salutiamo, senti, ciao Leonardo, intanto ci siamo salutati, buongiorno. Leonardo, ma sai che ieri abbiamo fatto la polemica a dire ci sono pochi tamponi, l'ha detto un medico di Magenta, per i medici ci sono per i calciatori, oggi sì. prendo Libero, prendo tutta la mazzetta dei giornali e a pagina 5 mi ti ritrovo codesta pagina di pubblicità, ti giuro, pagina pubblicità, grande Dybala, tu sei il futuro della Juve, a presto, firmato da Lucrezia 11 anni, Ludovica 9 anni, Giorgia 8 anni, Leone 2 anni. E mi sono chiesto, ma Leone come avrà pagato questa inserzione pubblicitaria? Avrà rotto il salvadanaio d'oro? Avrà preso la carta di credito a 2 anni, Leone? E sono rimasto un pochino colpito, per carità, ognuno usa i soldi come vuole, ma insomma, una bella pubblicità su grande Dybala, tu sei il futuro della Juve. È stata la famiglia Agnelli che ha dei figli e ha voluto così. Ma Lucrezia Agnelli non la conosco, Ludovica, Giorgia, non so, parenti della famiglia Agnelli che hanno voluto manifestare la vicinanza a Dybala in questo modo. Sì, tra l'altro hanno fatto notare molti giustamente che lo sfondo della scritta è granata, totalmente granata, quindi questa famiglia insomma ha un po' dei confusi. Comunque Lucrezia, Ludovica, Giorgia e Leone di 2 anni, chi saranno mai? Hanno comprato questa pagina pubblicitaria, i genitori voglio pensare. Sfida Lucchetti, chi sono? Non si sa. Invece voglio dire ai genitori eventualmente separati, quello di cui abbiamo parlato ieri, pare che l'interpretazione sia che si può andare a prendere i figli, anche se sei in un altro comune, pare che sia così. Ecco, questo anche a beneficio. Così, infatti io ho iniziato Manera e più sereno oggi i messaggi di Radio Londra per questo. Dai, sei un po' tranquillo sul fatto che puoi andare a prendere i figli? Sì, sono contento di poter andare a prendere, certo, sì. Bene. Questa è una cosa positiva. Allora, per festeggiare andiamo al traffico, anche se non credo che ci sia traffico. Non c'è traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, saluto il mio collega. Anch'io faccio il suo stesso lavoro, portare in giro le bombole nel Bresciano e nel Bergamasco. La situazione qua è veramente disperata, le bombole da consegnare sono tantissime, non riusciamo a reperire quelle vuote per poi farle riempire e siamo a corto di tutto e stiamo andando come i pazzi, credetemi, la disperata condizione nostra è qualcosa di inspiegabile. A causa di questo maledetto virus c'è stato un incremento di introduzione nei portoni di cicli e motocicli. Non se ne può più. When you don't believe a word I say. caro Leonardo, vabbè, io non conoscevo effettivamente, prima di conoscere anche dalle parole del nostro Victor, prima questo lavoro che sapevo esisteva, insomma, il lavoro del portare a casa l'ossigeno, portarlo nei presidi ospedalieri, ma pare che adesso sia una delle attività, come dire, più frenetiche in alcune zone d'Italia. È incredibile, insomma. Un giorno andrà scritto come siamo piombati in tutto questo, perché non ce ne siamo neanche molto accorti, no? No, fino a quando, ma anche quando Codogno eccetera era zona rossa, non avevamo minimamente questa percezione, no? Esatto. Una cosa che io mi ricordo che tu. Sì, io mi ricordo che tu l'avevi detto, beh, arriverà a Milano in un attimo, siamo circondati. E io ovviamente ti ho detto, ma dai, il solito Manera, ma adesso, ma non abbatterti, ma non è detto così. Devo dire, avevi ragione, però tu sei sempre pessimista, quindi una volta... Era abbastanza evidente, anzi, devo dire che Milano, tutto sommato, ha resistito, no? Cioè, ci è andata, sì, per il momento bene. Però neanche tu pensavi così quando l'hai detto, cioè tu l'hai detto per pessimismo, ma neanche tu ti immaginavi una situazione del genere. No, io ricordo che una volta in radio, una volta ho detto, ma arriveremo a 1000 contagi, avevo detto, no? Invece poi, infatti, come... invece purtroppo. Va bene, c'è Raffaello da Milano, buongiorno, eccoci. Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Sì. Volevo dire, intanto ascoltatore abituale, e quindi sempre complimenti per lo sviluppo della trasmissione. Sì, volevo dire questo, facciamo l'encomio ai medici, paramedici eccetera, e ci uniamo a questo perché effettivamente lo è da ringraziare, ma quello che bisognerebbe fare è esortare che venissero forniti i dispositivi di protezione individuale, perché mi raccontano che sono, come dire, la canna del gas in questo caso, cioè sono proprio, non sanno più come fare, non l'hanno. Guardi, ieri Raffaello dicevamo addirittura di questo medico che dice non ci fanno i tamponi, li fanno ai calciatori, a maggior ragione servono le precauzioni, le mascherine. Sì, questo è un medico di famiglia che è ricoverato grave al San Paolo, appunto perché non aveva presidi, perché non vengono forniti, insomma. Credo che oltre che ringraziarli sarebbe da esortare chi ha la possibilità di farlo di fornire questi PI, questi dispositivi di protezione individuale, perché con questi possono continuare ad operare, diversamente sarà certo. Anche chiaro, insomma, chiaro, ma l'appello che fa lei lo fanno molti ed è un appello sacrosanto e giusto, non possiamo che ribadirlo anche qui e sperare. Grazie Raffaello. Leonardo, a te. Allora oggi in questi tempi sfortunati di coronavirus vorrei rivolgere il mio pensiero alle coppie, ma non alle coppie che vivono insieme in casa, sposati o conviventi che siano. Penso alle coppie che stanno insieme ma non vivono insieme, quelli che si frequentavano prima che chiudesse tutto, ma poi ognuno andava a casa propria. E che adesso dal 9 marzo non si possono più vedere, ma rimangono stoicamente insieme. Come fanno? Cosa si dicono? Come si comportano? All'inizio, tutto sommato, può anche esserci quell'assenza che produce desiderio, può essere una specie di gioco. Ci vorremmo vedere, ma non possiamo. Aspettami un po' e vedrai poi come sarà bello. E allora nell'attesa ci si tiene in forma, sperando che l'attesa non sarà poi così lunga e tutto sommato potrebbe anche essere un modo per riattizzare il desiderio magari sopito. Poi i giorni passano. Ci si rende conto che bisognerà aspettare più del previsto, si cerca di rimediare. Ci si comincia a scrivere parole più piccanti del solito su WhatsApp, anche se contemporaneamente si comincia a curare meno l'aspetto fisico. Insomma, le parole simulano corpi ardenti, manovre inconfessabili, mentre però i chili aumentano dall'assunzione di caponate surgelate. E sotto le parole ardenti si celano uomini e donne in tutoni e mutande con elastici sfibrati. Ti farei questo, quello e quell'altro, si scrive. E lo si scrive mentre si finisce di farcire un panozzo con prosciutto crudo, cetriolini, salsa cocktail, con la salsa che cola anche sulla canotta. Questa fase va avanti alcuni giorni. Ci si scopre a parole amanti più esperti del più esperto degli amanti, uomini supereroi del sesso, donne calienti e spericolatamente erotiche. Mentre i corpi tendono a cedere sotto il peso dell'isolamento forzato, si diventa professionisti del metasesso. Si comincia timidamente con le parole e poi viene sdoganato di tutto, che anche Rocco Siffredi un po' arrossirebbe. Cose sempre sognate e mai dette prima diventano parte del linguaggio quotidiano per gli amanti di WhatsApp. Quindi la fase successiva, le fotografie. Quando uno dei due lancia l'idea di mandarsi fotografie, per prima cosa ci si fa la doccia. Forse perché si pensa che dalla foto possa trasparire anche la fragranza emanata dalla pelle. Si cerca di dare il meglio di sé. Gli uomini si disegnano sul corpo con delle matite muscoli che non ci sono più almeno dal 95. Le donne si truccano più che a Capodanno, consumando in un sol colpo tutto il make-up previsto per il 2020. Prima foto del viso, poi sempre più giù, sempre più sbottonati. Gli uomini tirano in dentro la pancia e si riempiono le mutande di ovatta. Le donne simulano piacere con espressioni che non hanno mai avuto nemmeno nei migliori giorni erotici della vita. L'ultima fase è la simulazione del rapporto. Le videochiamate su WhatsApp possono facilitare la questione. Lei si presenta in biancheria intima, lui con maglietta e mutanda presentabile, l'ultima rimasta. I profilattici non servono visto che non c'è rischio di concepimento. L'uomo tiene nascosto degli elastici color carne per aiutarsi in caso di non eccelsa reattività. La donna intanto cerca su Google rumori di orgasmo femminile da far eventualmente partire in caso di necessità. Ed è finalmente l'apoteosi. Il tutto dura pochi minuti, in verità un po' più di quello che durerebbe veramente, e poi si chiude la chiamata facendo quello che si farebbe nella realtà. Ci si gira dall'altra parte e si dorme, questa volta però senza sensi di colpa, visto che il partner, che potrebbe rimanerci male, questa volta fortunatamente non c'è. Insomma, sono i vantaggi del coronavirus. vabbè. Alessandro sulla linea 7? No, attenzione, c'è un collegamento eccezionale che dobbiamo fare con la nostra redazione, di fatto. Miriam Lucchetti, pronto? Cosa biondo, vuoi, Miriam? Biondo, sì. Ciao, sì, biondo. Sì. Allora, visto che non ti vedo di là dal vetro, non ho neanche sì. l'interfono per chiedertelo. Non sì. ho capito la sfida Lucchetti perché... Non hai capito la sfida Lucchetti perché eri disattenta. Allora, c'è una pagina su Libero di pubblicità, su Libero, con questo okay. testo, Grande Dybala. Tu sai chi è Dybala, non sei Elisabetta sì, Fusconi, sì, sai certo. chi è Dybala. Okay. Sì, Grande Dybala, tu sei il futuro della Juve a presto, a tutta pagina, firmato da Lucrezia. 11 anni, Ludovica 9 anni, Giorgia 8 anni e Leone 2 anni. Chi sono? Vorremmo sapere chi sono. Vabbè, ma è impossibile questa. Perché ne so, perché Leonardo ipotizza che siano degli agnelli, agnelli nel senso con la maiuscola. Allora, verifica se Lucrezia, Ludovica, Giorgia, Leone, molti ci hanno fatto notare, Leonardo, che Leone è anche il primo, l'unico figlio credo di Fedez e Chiara Ferragni, ma non credo, dai, insomma. Ma sai, se invece fossero parenti di Cairo, dire anche noi che siamo dalla parte parenti opposta, di Cairo. Parenti sì. di Cairo. Su sfondo granata, sì, non lo so, vabbè, anche se siamo... è come un problema matematico. I dati ce li hai, Miriam. I dati ce li hai. Vabbè, ma Miriam era lì tranquilla. Scusa, Miriam era lì tranquilla a bere delle tisane. Non gliene frega niente di queste cose. Lasciali continuare a bere le tisane. Vabbè. Sì, è vero, ci suggerisce anche, attenzione, c'è l'indizio, come il quesito con la Susi, il primo indizio. Leone, ci suggerisce Claudia Schiattone dalla regia, è il figlio di John Elkann, cioè John Elkann ha un figlio che si chiama Leone. Potrebbe essere, però Ludovica, Giorgia e Lucrezia, insomma, non allora, sappiamo chi siano. Ludovica momento, è un nome, allora, sì. Ludovica è un nome di figlia ricca, di qualche famiglia sì. ricca, perché Lucrezia. È un nome tipicamente di Lucrezia. Sì. Quindi saranno tutti da famiglia Giorgia, Agnelli, te Giorgia. Lo dico io. Anche non Giorgia. Lo so, Giorgia. Vabbè, ma abbiamo Miriam Lucchetti che ringraziamo, vai a lavorare, vai a vincere questa Grazie. Sfida, c'è il giornale radio, nella seconda ora vedremo se ha vinto oppure no. Il segnale orario vi è offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. State ascoltando un programma offerto da... Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Faremo la fine della Grecia. Pensioni dimezzate, stipendi dimezzati, ci sarà chi si arricchisce molto e la maggior parte di noi si impoverirà come non mai. Ma io ho 75 anni, sono già soggetta al coronavirus, se mi chiappa muoio. Col panorama futuro, noi poveri vecchi, si pensa ai nipoti, ai figli, il lavoro. Mamma mia, già sono demoralizzata, ci mettete un altro poemino. Oh, manera, qualcosina di più allegro per piacere. Ma brava cara ascoltatrice. Allora, no. Leonardo. Era un pezzo sì, allegro rispondo. Questo, non era un pezzo, non era sì, un pezzo triste, anzi. Dai, l'ovatta nelle mutande era molto allegro. Allora, attenzione, forse la sfida Luchetti è vinta. Forse la sfida Luchetti è vinta, perché la dinastia Aneri, casa vitivinicola, famosa, eccetera, che tra l'altro ha anche festeggiato i 100 anni della Juve con un brindisi, ha 4 figli che si chiamano, la dinastia, Ludovica, Giorgia, Lucrezia e Leone. I vini si chiamano così, insomma direi che ci siamo, no? Leonardo? Te l'ha detto no, Miriam Luchetti? No, me l'ha detto Miriam Luchetti, Miriam. Ma... Sì, me l'ha detto Mina Luchetti. Contemporaneamente anche mio fratello Daniele, che era all'ascolto, mi ha mandato l'articolo dicendo la dinastia. Guarda qua, la casa Viti. Quindi è una sfida Luchetti vinta a metà, perché l'ha vinta anche mio fratello. Allora, diciamo che il lavoro per oggi può farlo tuo fratello e Miriam Luchetti può tornare a bere tisane. Ecco. Sì, esatto, o bere vino della casa. Ti vieni qua come Aneri, la famiglia, la dinastia Aneri ha 4 figli, hanno 4 figli, tra l'altro hanno anche dei vini chiamati come loro, Ludovica, Lucrezia, Giorgia e Leone. Ci siamo, quindi li abbiamo beccati, sono loro che hanno comprato. Vabbè, Alberto d'Ancona. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno Mila, buongiorno Manera. Volevo fare una precisazione sui tabaccai che ieri sono stati un po' contestati perché le sigarette non sono di prima necessità. Noi siamo sì. 48.000 aziende a conduzione familiare, lavoriamo 8-10 ore al giorno per lo Stato, perché l'entrata dello Stato è benzina e sigarette, infatti quando fanno gli aumenti di servizi sono sempre certo. Benzina e sigarette. Però volevo dire anche che facciamo un servizio molto importante, siamo centro servizi, facciamo fax, fotocopie, ricariche telefoniche, adesso che tutti devono mandare i soldi a figli che stanno a Milano con le Poste Pay. Gli uffici postali sono quasi tutti chiusi o chiudono all'una. Ma Alberto, fa assolutamente bene a dirlo. Viva i tabaccai! Ieri dicevamo, Manera ha detto: ma scusate, se io non mi posso spostare, invece il tabaccaio è aperto, sì, e quindi ha urlato questo urlo di battaglia. Non siamo affetto per niente, signor Conte. Fa un decreto ogni 3 giorni. Oggi via, corri a scaricare il nuovo modulo. La gente, Alberto, come devo fare? Devo andare qui, devo andare là, via a scaricare il modulo e fare le fotocopie. Ma quello fa un decreto ogni 3 giorni. Basta con questi permessi ogni volta. Questo è un problema. Ma ci sono decreti a ripetizione uno dopo l'altro, forse sarebbe meglio. Come ha detto Forchielli, se ne fa uno di decreto e non si neanche si vede se quello fatto 2 giorni prima è efficace. Aspetta un attimo a vedere. Comunque, Alberto ha ragione e ha fatto bene. La gente viene da noi per questo. Noi facciamo tutti questi servizi, ricariche telefoniche. Adesso come fanno a parlare con i propri cari se non ci fosse il tabaccaio che lo trova tutte le parti senza dove prende la macchina? Scendi sotto casa e c'è il tabaccaio con tutti questi servizi. Ripeto, ci danno 5 centesimi sulle ricariche del telefono, sulle sigarette ci danno degli agi che fanno schifo, eppure noi siamo lì servitori dello Stato a rischiare la vita. Bravo Alberto, bravo, lo dica ad alta voce. Ma l'ha fatto la battuta. Perdono perché siete due, sono un vostro ammiratore, quindi premio Giacchetti a tutti e due. Però prima volevo dire allora... Manera, mio figlio fa il medico, è in prima linea, è 25 giorni che non lo vedo, ma non lo voglio vedere. Quando sarà finito lo voglio abbracciare forte, gli voglio rompere tutte le costarelle da quando lo abbraccerò forte. Però ecco, non siamo mai citati da Conte, lavoriamo per lo Stato, ha degli agi che fa schifo e neanche ci cita, capito? E poi ripetete a tutti i cittadini che noi siamo lì, siamo a disposizione per tutti i servizi che possiamo fare, ricariche e quant'altro, pagamento bollettini, perché dopo non si paga, non è vero niente, le bollette tocca pagarle tutte, perché non sono rimandate, certo. Signor Conte, capito? Un sacco di coglionerie, dice. Alberto, noi no, ma è chiaro. Sì. Però è venuto un signore. No, ma è uno sfogo. Uno sfogo. Mi ha detto il ragioniere che la devo pagare perché la rateizzazione è venuta prima del decreto. Ah, cioè, roba allucinante. Certo. No, allucinante. Ma è uno sfogo assolutamente comprensibile e capibile. Noi qua abbiamo talmente tanti ospiti, No, dico che poi anche uno sfogo come padre, io lo capisco benissimo, insomma, cioè, poi il figlio fa il medico, quindi doppiamente, no, comprensibile, ecco. Allora, abbiamo pochi minuti, siamo sempre di corsa e questa è un po' l'ansia che mi viene, perché io vorrei dare spazio a tutti, ma spazio a tutti non ce la facciamo, il tempo è compresso, dobbiamo fare la trasmissione di 7 ore, non di 1 ora e mezza, che è stata anche ridotta. Mauro Morandi è il nostro eremita a Budelli, l'isola di Budelli. Mauro, come sta? Buongiorno, sto bene, non come voi che soffrite la solitudine, soffrite la faccenda di dover stare in casa. Pensate che io in casa durante l'inverno, e sono 31 inverni che passo qua, io sto benissimo, invece voi soffrite di dover stare fermi, chiusi dentro. Io sto chiuso dentro quattro mesi, e non mi lamento, anzi. Perché sto bene? Perché? Perché questa è la domanda. Questa è la domanda stupenda. Noi abbiamo raccontato la storia di Mauro da Budelli, da sempre eremita, diciamo, isolato, e adesso Mauro Morandi praticamente è nella situazione in cui siamo noi italiani, solo che noi siamo disperati. Morandi, no? Ma perché? Perché non accettate la noia? La noia invece è utilissima, è nella noia che, annoiandosi, c'è la ricerca, e nella ricerca che si cresce, e questo lo diceva Kerouac, no? Nel libro sulla strada, è on the road, sulla strada che si cerca che cosa? Sì. Quello che noi siamo, cerchiamo noi stessi, perché non sappiamo nemmeno chi siamo, e crediamo di arrivare alla fine in un posto, con la ricerca sulla strada, in un posto dove lì ti viene riconosciuto chi sei. No, la ricerca è semplicemente il viaggio, non è la meta, è nel viaggio che si cresce, e perciò evidentemente con la noia tu cominci a percorrere una strada per trovare una soluzione, e questa soluzione che non c'è, ma è la ricerca, e la nostra vita è una continua ricerca, è qui che si cresce. Ragazzi, invece si ha paura di riconoscere, trovare noi stessi. Perché si ha paura? Perché si va a riconoscere che siamo anche delle brutte persone. Noi siamo tutto, non siamo solo belli. Ci sono i belli, i buoni e i bravi, e poi ci sono quegli altri che sono i cattivi, i neri o gialli o verdi. No, noi siamo tutto, buono, cattivo, bello, brutto. Ma non vogliamo essere belli, brutti, non vogliamo, e allora cerchiamo di distrarci cercando di andare a parlare con gli altri, di andare alla ola allo stadio a fare la ola, andare a giocare a carte assieme agli altri per essere distratti da questo. Certo. Beh, insomma, è stupendo, perché Mauro Morandi, ripeto, è lì sulla sua isola. Leo, te lo ricordi quante volte l'abbiamo sentito? Sì. Un pochino. Ma senza non prendere in giro la parola sbagliata, però sorridevamo del suo Natale passato lì tranquillo da solo sull'isola di Budelli, dove vive da anni, sorridevamo della sua asocialità, del non incontrare nessuno. Adesso siamo tutti degli asociali per costrizione e non sappiamo cosa fare. Infatti. C'è anche da dire che lui è a Budelli, io sono in piazza Udine, quindi un po' di differenza c'è comunque. Questo è anche vero. Guardate che la bellezza c'è anche nella piazza Udine. Certo. Ma Mauro, facciamo così, noi dobbiamo sentirci con più calma nei prossimi giorni, prendiamo già un appuntamento perché voglio approfondire, però vorrei, nel ringraziarla, che dai Leonardo, prima del traffico apri il balcone e urla che c'è della bellezza in Piazza Udine, di che è una meraviglia Piazza Udine, è stupendo. Basta, magari ti rinchiudono. Oh, basta, vai Leo, vai. Piazza Udine è meravigliosa, più di Budelli. No, questo no. Più no, anche come l'isola di Budelli. Mauro, ti devo salutare, ci sentiamo nei prossimi giorni. Bisogna saperla vedere, vederla e sentirla. Vai al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Sei ancora con noi, Leo, ti hanno rinchiuso già dopo questa frase. Tra l'altro io vedo una strada più piccolina, quindi da qui vedo veramente poco passaggio, però sì. È interessante che citasse come libro Kerouac sulla strada, certo. Insomma, che, esatto, che noi che, detto, che sulla strada no, cioè, sulla strada noi non ci possiamo andare comunque. Ma perché per Mauro Morandi la strada è anche una strada interiore, no? Un percorso, quello, infatti ci scrivono che meraviglia quest'uomo, ci scrive Susanna da Roma, lo richiameremo. Mauro Morandi vive da 35 anni, credo, se ricordo bene, sull'isola di Budelli, da solo, gli portano ogni tanto i pescatori da mangiare, eccetera. Lo risentiremo nei prossimi giorni, ma io voglio portare un altro luogo meraviglioso. Adesso faccio un po' di pubblicità alla Valtellina, perché l'ospite che saluto è Emanuele Piasini. Buongiorno Emanuele, grazie di essere qui. Ho scoperto grazie essere di Poggi Ridenti, io sono un frequentatore di Tresivio, vabbè, messaggio in codice che capiamo solo noi, Poggi Ridenti attaccata a Tresivio, distretto della Presaola, straordinario. Allora, Emanuele Piasini, fondatore di WebTech, ha messo a punto questa app che credo la regione Umbria utilizzerà in anteprima per controllare i movimenti delle persone, insomma per fare il modello sudcoreano di cui tanto si è parlato sul coronavirus, no? È corretto, Piasini? Sì, allora noi diciamo l'applicazione che abbiamo realizzato in realtà non controlla le persone, quindi non fa un tracciamento della persona, ma fa un tracciamento del contatto. Quindi noi siamo in grado di rilevare il contatto di più persone che hanno attiva l'app in quel momento. Quindi diciamo rispetto ad altre applicazioni o altre soluzioni viste all'estero in questi giorni in televisione, noi non abbiamo e non vogliamo mettere a disposizione dell'autorità, diciamo, continuo che si muove sulla mappa, ma semplicemente i contatti avuti con altre persone. Certo, questo per garantire la privacy, eccetera. Assolutamente. Ma come mai la regione, ma è vero che utilizzerete, darete questo strumento alla regione Umbria, cioè si parte? Sì, allora noi abbiamo chiaramente realizzato l'applicazione senza scopo di lucro e il primo passaggio l'abbiamo fatto a livello istituzionale, diciamo dal prefetto di Sondrio in questo caso, che ci ha messo in contatto con i ministeri e con Roma nel presentare il nostro progetto. Di conseguenza il ministero ci ha dato i collegamenti con varie regioni, tra cui la regione Umbria, tramite l'assessore Michele Fioroni, è stata la prima a voler adottare questo sistema in una velocità importante e quindi che già in settimana saremo pronti a partire con questo test. Diciamo insomma che funziona con un'app, uno si scarica l'app sul telefonino che credo si chiami Stop Covid-19 e in totale protezione della privacy, come ci ha spiegato, vengono tracciati così, come dire, gli spostamenti, ma non Pinco Pallino è andato là, ma come dire le celle telefoniche vengono controllate. Come c'è garanzia che tutto venga fatto con le norme? Perché chiaramente se uno ha installato l'app sul telefonino, il telefonino appartiene a una persona. Allora sì, come funziona? Innanzitutto l'applicazione è discrezionale, quindi l'utente decide di scaricarla, approva per due volte la privacy policy che è stata comunque già comunicata anche al garante, quindi nel pieno rispetto della privacy. L'utente può decidere di attivare e disattivare l'applicazione in qualsiasi momento, può cancellare il suo profilo e i suoi dati, e comunque i dati più vecchi di 30 giorni vengono comunque cancellati in automatico. Oltre questo, la dashboard di intelligenza artificiale, che poi calcola i contatti, quindi dà alle autorità, e ripeto solo alle autorità, la possibilità di vedere questi contatti, è su un server protetto e quindi accessibile solamente da queste, da queste autorità competenti. Bene. Beh, insomma, diciamo che questo è uno dei metodi. Tu accetteresti, caro Leo? Ma sai quante cose ho già accettato? Io ogni volta che ti compare sul telefono accetto. Io accetto tutto ormai senza guardare tutto. Più niente. Accetto tutto. Anzi, ho sottoscritto un documento che dice proprio accetto tutto in generale. Tu no, a questo punto non ti devo neanche chiedere altre autorizzazioni. Tu hai dato un accetto tutto a monte. Sì, a prescindere, sì. Va bene, Emanuele Piasini, visto che è della Valtellina, arriva un messaggio di un ascoltatore che dice: vedo tre persone che stanno sciando in Valmalenco. Vabbè, niente, le riferisco. Ma com'è possibile tre persone che stanno sciando in Valmalenco? Gli impianti sono chiusi, evidentemente, non lo so, sono saliti da soli, hanno fatto quello sci per cui sali e poi scendi, boh, in totale libertà. Potrebbe essere. Grazie Emanuele Piasini, che è della WebTech, fondatore della WebTech, hanno messo a punto questa app che verrà sperimentata in Umbria, altro che sperimentazione di farmaci, questa mi sembra un po' più concreta. Sperimentiamo invece il nostro Federico Taddi a vedere se trova dei giochi. Eccolo là. Eccoci qua. Ormai è una gag a cui ti devi sottoporre, caro Federico, lo sai. Ma pensa che ormai penso i giochi e me li vedo fatti solo da maniera, capito? Solo da maniera, per gettare una più cupa disperazione. Oggi abbiamo tempo per due giochi per stare in casa allegramente, caro Federico. Vai, tempo della ricreazione. Allora, iniziamo con un grande classico dei giochi popolari, che è il tiro alla fune. Servono due concorrenti. Vi do una doppia versione. La prima, che serve, è quella più divertente, ma non si può fare per ovvi motivi, insomma, sappiamo che in questo periodo non si può sprecare la carta igienica, però sarebbe stato perfetto farlo con un metro di carta igienica, che potevamo sostituire con un metro di filo di lana. Allora, un metro, che sappiamo, un è l'unica filo misura. Di lana, un metro, è giusto. Il metro, la distanza tra due persone. Abbiamo il nostro filo di lana, che è la fune da tirare, quindi un concorrente da una parte, uno dall'altra, il filo in mezzo. Bisogna tirare e riuscire a strappare o la carta igienica o il filo di lana, questo è il tiro alla fune. Mm-hmm. Vince chi riesce a tenere in mano il pezzo più lungo di filo o di carta igienica. Quindi c'è la perizia a strappare, attenzione, perché se strappi di strappo, come si suol dire, magari si rompe subito vicino a te e hai perso. Esatto, questo è molto divertente e non ci si fa male, Manera, te lo dico da subito. No, col filo di lana ti puoi tagliare tirando il filo di lana. Dicendo? A me è successo, ho provato anche ieri, guarda, non sapevo cosa fare, ho tirato un filo di lana e mi sono tagliato. Sapete che una volta Leonardo è andato in pronto soccorso per una vescica? Prova a farlo adesso, di questi tempi, scusate, una vescica. Poi registrami grossa, per favore, la risposta dell'operatore sanitario. Vabbè. Era una vescica grossa, Federico, comunque. Sì, vabbè. Sì, una vescicona. Federico. Il secondo gioco invece, voglio unire una cosa che ai ragazzi piace, che è farsi il selfie, ovviamente, con lo smartphone. Una cosa che in questo momento piace un po' meno, che è stare in casa, ovviamente, perché ormai questa casa la conoscono in ogni centimetro, ma la conoscono abbastanza. Allora, la sfida è questa, è quella di mandarsi 5 selfie, i due concorrenti, se sono padre e figlio, se sono due fratelli, 5 selfie fatti in casa, okay? Quindi qui è semplice, però l'altro, il concorrente, deve indovinare dove tu hai fatto quel selfie. Quindi il gioco in quale angolo della casa? In quale angolo nascosto? In quale sportello? Davanti a quale cassetto? E insomma, anche questo l'ho provato e si scatenano delle bellissime angolazioni, proprio vedi la casa come non l'hai mai vista. Pensi di conoscere la casa e invece non la conosci, per esempio tutti i cassetti che Manera ha misurato. Questo è bello, Leonardo, potresti mandarci un paio di selfie da angoli della tua casa. Uno è il bagno, sicuramente, perché si sa che vivi lì, secondo me fai anche la trasmissione da lì. È un gioco pericoloso perché picchi contro lo spigolo. Sì, no, perché tu cercando angoli sconosciuti vai sicuramente a metterti nei guai. Comunque, se vogliamo favorire questi giochi pericolosi per i bambini, facciamo pure, Federico. Vuoi danneggiare i bambini? Federico Taddia, noto sterminatore di bambini, conosciuto come Nerone qui. Erode. Va bene, dai, ci troviamo domani mattina, caro Federico. Allora, Leonardo, nel ringraziare Claudia Schiattone, regia con l'Alpino, Peter Bescapè e i nostri Miriam Lucchetti, che ha vinto una sfida oggi epocale, no? Abbiamo beccato la famiglia Aneri, che ha pubblicato, quasi certamente su loro, una pagina di pubblicità su Libero. Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, devi chiudere con l'urlo, dai, Piazzale Udine, magnifica Udine in tutto il mondo. No, voglio fare una cosa, dai, perché l'ascoltatore di prima mi ha colpito, e allora invece sui grido dalla finestra, certo. Viva i tabaccai!